Lavoro di Dio. Cominciare di molti, portare a termine di pochi. Fra questi pochi dobbiamo esserci noi, che cerchiamo di comportarci da figli di Dio. Non dimenticatelo, soltanto i lavori ultimati con amore, completati bene, meritano le parole di elogio del Signore che si leggono nella Sacra Scrittura. Meglio la fine di una cosa che il suo principio. Voglio ricordarvi un aneddoto che forse già sapete, ma che mi piace ripetere perché è molto espressivo e ricco di insegnamenti. Una volta mi misi a cercare nel rituale romano la formula per la benedizione dell'ultima pietra di un edificio, la pietra più importante, perché riassume simbolicamente il lavoro intenso, coraggioso e perseverante di molte persone per molti anni. Rimasi molto sorpreso nel constatare che non esisteva. Bisognava accontentarsi di una benedizione domnia, di una benedizione generica. Una lacuna simile mi sembrava impossibile e ripassai ripetutamente, ma invano, l'indice del rituale. Molti cristiani hanno smarrito la convinzione che l'integrità di vita richiesta dal Signore ai suoi figli esige una cura autentica nell'adempimento dei propri compiti che devono essere santificati fino ai dettagli più minuti. Non possiamo offrire al Signore cose che, pur con le povere limitazioni umane, non siano perfette, senza macchia, compiute con attenzione anche nei minimi particolari. Dio non accetta la raffazzonatura. Non offrite nulla con qualche difetto, ammonisce la Sacra Scrittura, perché non sarebbe gradito. Pertanto il lavoro di ciascuno, il lavoro che impiega le nostre giornate, le nostre energie, deve essere un'offerta degna per il Creatore, operatio Dei, lavoro di Dio e per Dio. In una parola, deve essere un'opera completa, impeccabile. A ben guardare, fra le molte lodi che di Gesù hanno intessuto coloro che ebbero modo di contemplare la sua vita, ve n'è una che in un certo modo le riassume tutte. Mi riferisco all'esclamazione, piena di meraviglia, di entusiasmo, che sorse spontaneamente dalla folla, testimone attonita dei suoi miracoli. Bene omnia fecit. Ha fatto tutto ammirevolmente bene. I grandi prodigi, le cose piccole, quotidiane, che non lasciano stupefatti, ma che Cristo ha compiuto con la pienezza di chi è perfectus Deus, perfectus homo. Perfetto Dio e uomo perfetto. Tutta la vita del Signore mi riempie di ammirazione. Inoltre ho una debolezza particolare per i suoi 30 anni di esistenza occulta a Betlemme, in Egitto, a Nazareth. Questo periodo, lungo, del quale il Vangelo fa solo un cenno, sembra privo di significato specifico agli occhi di chi lo osserva con superficialità. Invece ho sempre sostenuto che questo silenzio sulla biografia del Maestro è molto eloquente e racchiude meravigliose lezioni per i cristiani. Furono anni intensi di lavoro e di preghiera, durante i quali Gesù condusse una vita normale, come la nostra se vogliamo, divina e nello stesso tempo umana, in quella semplice e ignorata bottega di artigiano, e successivamente davanti alle folle ha svolto tutto con perfezione. Partecipazione al potere divino. Non appena fu creato, l'uomo dovette lavorare. Non sto inventando. Basta aprire le prime pagine della Bibbia per leggere che, ancor prima che il peccato entrasse nell'umanità e come conseguenza della trasgressione, apparissero la morte, le pene e le miserie, Dio formò Adamo col fango della terra e creò per lui e per la sua discendenza questo mondo così bello, utto per retur e custodire tillum, perché lo lavorasse e lo custodisse. Dobbiamo convincerti pertanto che il lavoro è una realtà meravigliosa che ci viene imposta come una legge inesorabile alla quale tutti, in un modo o nell'altro, siamo sottomessi, anche se qualcuno tenta di sottrarsi. Sappiatelo bene, quest'obbligo non è sorto come conseguenza del peccato originale e tantomeno è una scoperta moderna. Si tratta di un mezzo necessario che Dio ci affida sulla terra, dando ampiezza ai nostri giorni e facendoci partecipi del suo potere creatore, affinché possiamo guadagnare il nostro sostentamento e nello stesso tempo raccogliere frutti per la vita eterna. L'uomo nasce per lavorare come gli uccelli per volare. Potreste farmi osservare che sono passati molti secoli e che ben pochi la pensano così, che la maggioranza semmai si affanna per motivi ben diversi, gli uni per denaro, altri per mantenere la famiglia, altri ancora per raggiungere una certa posizione sociale, per sviluppare le proprie capacità, per soddisfare passioni disordinate, per contribuire al progresso sociale. In generale, la gente affronta le proprie occupazioni come una necessità da cui non può sfuggire. Di fronte a questa visione piatta, egoista, gregaria, tu ed io dobbiamo ricordarci e ricordare agli altri che siamo figli di Dio, ai quali, come ai personaggi della parabola evangelica, nostro padre ha rivolto l'invito: figlio, va a lavorare nella vigna. Vi assicuro che se ci impegniamo tutti i giorni a considerare i nostri doveri personali come una richiesta divina, impareremo a portare a termine il compito con la maggior perfezione umana e soprannaturale di cui siamo capaci. Forse qualche volta ci ribelleremo, come il figlio maggiore che rispose: non voglio. Ma poi, pentiti, sapremo reagire e ci dedicheremo con rinnovato impegno al compimento del dovere. Se la sola presenza di un personaggio importante, ragguardevole, è sufficiente a far sì che i presenti si comportino meglio, come mai la presenza di Dio, costante, diffusa ovunque, conosciuta dalle nostre facoltà e armata con gratitudine, non ci rende sempre migliori nel nostro parlare, nelle nostre azioni e nei nostri sentimenti? Davvero, se il fatto che Dio ci vede fosse una realtà ben incisa nella nostra coscienza, se ci rendessimo conto che tutto il nostro lavoro, proprio tutto, nulla sfugge al suo sguardo, si svolge alla sua presenza, con quanta cura porteremmo a compimento tutte le cose e quanto diverse sarebbero le nostre reazioni. E questo è il segreto della santità che vi sto predicando da anni. Dio ha chiamato tutti ad essere suoi imitatori e voi e Dio siamo stati chiamati affinché, vivendo in mezzo al mondo, da persone qualsiasi, sappiamo mettere Gesù Cristo, Signore, al vertice di tutte le attività umane e oneste. Adesso capirete ancora meglio che se qualcuno di voi non amasse il lavoro, il suo lavoro, se non si sentisse autenticamente impegnato in una delle nobili attività umane per santificarla, se fosse priva di una vocazione professionale, non riuscirebbe mai a raccogliere la radice soprannaturale della dottrina del sacerdote che vi sta parlando, proprio perché gli mancherebbe una condizione indispensabile, quella di essere un lavoratore. Vi avverto, non è presunzione da parte mia che mi rendo immediatamente conto se le mie parole cadono nel vuoto o semplicemente scivolano su chi mi ascolta. Lasciate che vi apra il mio cuore, così mi aiuterete a rendere grazie a Dio. Quando nel 1928 vidi ciò che il Signore voleva da me, mi misi subito al lavoro. In quegli anni, grazie Signore perché è stato necessario soffrire molto e amare molto, mi presero per pazzo. Alcuni con aria di comprensione si limitarono a chiamarmi sognatore, ma sognatore di sogni impossibili. Nonostante tutto e nonostante la mia miseria, continuai senza scoraggiarmi. Siccome la cosa non era mia, si fece strada in mezzo alle difficoltà. È oggi una realtà diffusa su tutta la terra, da un polo all'altro, e sembra tanto naturale alla maggior parte delle persone, perché il Signore ha fatto sì che venisse riconosciuta come cosa sua. Vi stavo dicendo che mi basta scambiare due parole con una persona per rendermi conto se mi capisce o no. Non mi succede come alla chioccia che sta covando e una mano estranea le rifila furtivamente un uovo d'anatra. Passano i giorni e solo quando i pulcini rompono il ghiaccio e vede arrancare quel batuffolo di lana si accorge dei suoi movimenti sgraziati. Una zampa qua, una là, che quel coso non è dei suoi, che non imparerai mai a pigolare per quanto si sforzi. Non ho mai trattato male chi mi ha voltato le spalle, neppure quando i miei desideri di aiutare sono stati ripagati con lo scherno. Per questo, verso il 1939, Rimasi colpito da una scritta che trovai in un edificio in cui stavo predicando un ritiro a degli studenti universitari. Essa diceva: "Ogni viandante segua la sua strada." Era un consiglio da non buttare. Scusate questa digressione. E anche se non ci siamo allontanati dal tema, riprendiamo il filo del discorso. Convincetevi che la vocazione professionale è parte essenziale e inseparabile della nostra condizione di cristiani. Il Signore vi vuole santi nel posto in cui siete, nella mansione che vi siete scelta per il motivo che vi è parso più opportuno. Tutte mi sembrano buone e nobili, se non si oppongono alla legge divina, e suscettibili di essere innalzate al piano soprannaturale, cioè inserite nella corrente d'amore che caratterizza la vita di un figlio di Dio. Non posso evitare un certo disagio quando qualcuno, parlando del suo lavoro, si dà l'aria di vittima e afferma che gli assorbe chissà quante ore, quando in realtà non svolge neppure la metà del lavoro di molti suoi compagni di professione che, in fin dei conti, forse si muovono solo per motivi egoistici o quantomeno meramente umani. Tutti noi qui presenti, in dialogo personale con Gesù, svolgiamo un'occupazione ben precisa. Medico, avvocato, economista. Pensate un momento ai vostri colleghi che emergono per prestigio professionale, per onestà, per spirito di servizio. Non dedicano molte ore al giorno, anche della notte, al loro compito? Non abbiamo niente da imparare da loro? Mentre vi sto parlando, io stesso esamino la mia condotta e vi confesso che nel pormi questa domanda sento un certo imbarazzo e il desiderio di chiedere perdono a Dio, pensando alla mia corrispondenza così debole, così lontana dalla missione che Dio ci ha affidata nel mondo. Cristo, scrive un padre della Chiesa, ci ha lasciati perché fossimo come lampade, perché diventassimo maestri per gli altri, perché fungessimo da lievito, perché vivessimo come angeli fra gli uomini, come adulti in mezzo ai bambini, come esseri spirituali in mezzo a gente soltanto razionale, perché fossimo semente, perché producessimo frutti. Non sarebbe necessario aprir bocca se la nostra vita risplendesse in questo modo. Le parole sarebbero superflue se mostrassimo le opere. Non ci sarebbe neppure un pagano se noi fossimo veramente cristiani. Esemplarità della vita professionale. Dobbiamo evitare lo sbaglio di ritenere che l'apostolato si riduca alla testimonianza di qualche pratica di pietà. Tu e io siamo cristiani, ma nello stesso tempo e senza soluzione di continuità, siamo cittadini e lavoratori, con dei doveri ben chiari che dobbiamo compiere in maniera esemplare se vogliamo santificarci davvero. Gesù stesso ci stimola. Voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Il lavoro professionale, qualunque esso sia, diventa la lucerna che illumina i vostri amici e colleghi. Ripeto pertanto ai soci dell'Opus Dei, e l'affermazione vale anche per tutti voi che mi ascoltate, se mi dicono che Tizio è un buon figlio mio, un buon cristiano, ma un cattivo calzolaio, che me ne faccio? Se non si sforza di imparare bene il suo mestiere e di esercitarlo con cura, non potrà santificarlo né offrirlo al Signore, perché la santificazione del lavoro quotidiano è il cardine della vera spiritualità per tutti noi che, immersi nelle realtà terrene, siamo decisi a coltivare un intimo rapporto con Dio. Lottate contro l'eccessiva comprensione che ciascuno prova presso di sé. Siate esigenti con voi stessi. Talvolta pensiamo troppo alla salute, al riposo, che pertanto non deve mancare, perché è necessario per ritornare al lavoro con rinnovate energie. Ma il riposo, come ho scritto tanto tempo fa, non consiste nel non far nulla, consiste nel distrarci con attività che richiedono meno sforzo. Altre volte, con falsi pretesti, ce la prendiamo troppo comoda, dimentichiamo la benedetta responsabilità che pesa sulle nostre spalle, ci accontentiamo di salvare la faccia, ci lasciamo trascinare da ragioni senza ragione, perdendo per restare con le mani in mano, mentre Satana e i suoi complici non vanno mai in ferie. Ascolta con attenzione, meditalo, ciò che San Paolo scriveva ai cristiani che svolgevano mansioni servili. Gli esortava a obbedire ai loro padroni, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, compiendo la volontà di Dio di cuore, prestando servizio di buona voglia come al Signore e non come agli uomini. Ottimo consiglio che tu e io dobbiamo seguire. Chiediamo luce a Gesù Cristo, nostro Signore, e preghiamo di aiutarci a scoprire in ogni momento il significato divino che trasforma la nostra vocazione professionale nel cardine sul quale poggia e ruota la nostra chiamata alla santità. Nel Vangelo potrete leggere che Gesù era conosciuto come Faber, Filius Mariae, l'artigiano, il figlio di Maria. Ebbene, anche noi con santo orgoglio dobbiamo dimostrare coi fatti che siamo lavoratori, uomini e donne che lavorano. Dato che ci dobbiamo comportare come figli, come inviati di Dio, dobbiamo ricordare molto bene che non lo serviamo con lealtà quando trascuriamo il nostro lavoro. Quando non condividiamo con gli altri l'impegno e l'abnegazione nel compiere i doveri professionali. Quando diamo motivo di essere giudicati scansafatiche, leggeri e superficiali, disordinati, pigri e inutili. Perché chi trascura questo genere di doveri, solo in apparenza meno importanti, difficilmente riuscirà vittorioso nei doveri della vita interiore, che certamente sono più difficili. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, chi è disonesto nel poco è disonesto nel mondo, nel molto. Non sto parlando di ideali astratti, mi attengo ad una realtà molto concreta, di capitale importanza, capace di trasformare l'ambiente più pagano e più ostile alle richieste divine, come avviene nei primi tempi dell'era della salvezza. Assaporate le parole di un autore anonimo di quell'epoca, che così riassume la grandezza della nostra vocazione. I cristiani sono nel mondo ciò che l'anima è nel corpo. Vivono nel mondo, ma non sono mondani, come l'anima è nel corpo, ma non è corporea. Abitano in tutti i luoghi, come l'anima è in tutte le parti del corpo. Agiscono per una forza interiore che non si vede, come l'anima, quantunque invisibile, agisce per la sua essenza. Vivono come pellegrini fra le cose perdute nella speranza dell'incorruttibilità dei cieli, come l'anima immortale vive ora in una tenda mortale. Si moltiplicano sempre di più nelle persecuzioni di tutti i giorni, come l'anima si abbellisce nella mortificazione quotidiana del corpo. Così è eccelso il posto loro assegnato da Dio nel mondo e non è lecito disertarlo, come all'anima non è consentito separarsi volontariamente dal corpo. Pertanto sbaglieremmo strada se ci distraessimo dalle occupazioni terrene. Anche in esse il Signore vi attende. Potete star sicuri che attraverso le circostanze della vita quotidiana, ordinate o consentite dalla provvidenza nella sapienza infinita, noi uomini dobbiamo avvicinarci a Dio. Non raggiungeremo questo scopo se non siamo disposti a portare bene a termine il nostro compito, se non perseveriamo sullo slancio del lavoro incominciato con passione umana e soprannaturale, se non svolgiamo le nostre mansioni come il migliore dei nostri colleghi. E se è possibile, se davvero lo vuoi, vedrai che è possibile, ancor meglio del migliore, perché impiegheremo tutti i mezzi umani onesti e i mezzi spirituali necessari per offrire al Signore un lavoro fragrante di premure, eseguito fin dai dettagli, con una filigrana in tutto completo. Trasformare il lavoro in orazione. Vi ripeto spesso che in questi momenti di conversazione con Gesù, che ci vede e che ci ascolta dal tabernacolo, non possiamo cadere in un'orazione impersonale. E aggiungo che per meditare in modo da instaurare immediatamente un dialogo con il Signore, non occorre il suono delle parole. Dobbiamo uscire dall'anonimato, metterci alla sua presenza, così come siamo. Senza imboscarci nella folla che riempie la chiesa, né disperderci in una sequela di parole vuote che non sgorga dal cuore, ma tutt'al più da abitudini spoglie. Pertanto questi due sforzi non possono cadere nell'oscurità amorfa di un compito abitudinario, impersonale, perché in quel preciso momento verrebbe meno l'attrattiva divina che abita le tue attività quotidiane. Mi affiorano alla memoria i viaggi nei campi di battaglia durante la guerra civile spagnola. Senza disporre di alcun mezzo umano, occorreva ovunque qualcuno avesse bisogno del mio lavoro sacerdotale. In quelle circostanze così eccezionali, che forse fornivano a qualcuno il pretesto per giustificare omissioni e trascuratezze, non mi limitavo a suggerire consigli semplicemente ascetici. Ero mosso dalla stessa preoccupazione che sento oggi, che mi sforzo di far risvegliare dal Signore in ciascuno di voi. Mi interessavo del bene delle anime di quei giovani e anche della loro gioia qui sulla terra. Li incoraggiavo a far buon uso del tempo impiegandoli in occupazioni utili. La guerra non doveva costituire una specie di parentesi chiusa della loro vita. Li esortava a non lasciarsi andare, a fare tutto il possibile per non trasformare la trincea o la garitta in una specie di sala di attesa delle stazioni ferroviarie di allora, dove si ammazzava il tempo in attesa di treni che sembravano non giungessero mai. Concretamente suggerivo di occuparsi di qualche attività profittevole, studiare, imparare le lingue, per esempio, compatibile con il servizio militare. Raccomandavo di non smettere mai di essere uomini di Dio e di fare in modo che tutto il loro comportamento fosse operatio Dei, lavoro di Dio. Ed era commovente constatare che quei ragazzi, in situazioni niente affatto facili, rispondevano splendidamente. Si notava la solidità della loro tempra interiore. Ricordo anche il periodo del mio soggiorno a Burgos, nella stessa epoca. Venivano in molti a trascorrere qualche giorno con me, approfittando dei permessi, mentre altri erano a distanza nelle caserme della zona. Come alloggio condividevo con alcuni miei figli in un'unica stanza di albergo sgangherato e pur non disponendo nemmeno dello stretto indispensabile, ci organizzavamo in modo che quelli che venivano, ed erano centinaia, trovassero il necessario per riposare e ritemprarsi. Avevo l'abitudine di passeggiare lungo le rive dell'Alazon per parlare con quei giovani, per ascoltare le loro confidenze, per orientarli con il consiglio opportuno che li confermasse o aprisse loro nuovi orizzonti di vita interiore. E sempre con l'aiuto di Dio li incoraggiavo, li stimolavo, li appassionavo alla loro vita di cristiani. Talvolta le nostre camminate giungevano fino al monastero di Las Huelgas. In altre occasioni facevamo una capatina nella cattedrale. Mi piaceva salire su una delle sue torri per far contemplare da vicino a quei ragazzi la selva di Guglie, un autentico ricamo di pietra frutto di un lavoro paziente, faticoso. In quelle conversazioni facevo notare che tutta quella meraviglia non era visibile dal basso, e per materializzare ciò che tanto spesso avevo loro spiegato, commentavo. Questo è il lavoro di Dio, l'opera di Dio. Portare a termine il lavoro professionale con perfezione, in bellezza, con la grazia di questi delicati merletti di pietra. Capivano, davanti ad una realtà così palese, che tutto quello era preghiera, un bellissimo dialogo con il Signore. Coloro che spesero le loro forze in quel lavoro sapevano perfettamente che dalle strade della città nessuno si sarebbe reso conto del loro sforzo. Era soltanto per il Signore. Capisci adesso come la vocazione professionale può avvicinare a Dio? Fa anche tu come quegli scalpellini. Anche il tuo lavoro sarà operatio Dei, un lavoro umano con viscere e fisionomia divina. Convinti che Dio è dappertutto, noi coltiviamo i campi, lodando il Signore, solchiamo i mari ed esercitiamo ogni altro mestiere cantando le sue misericordie. In questo modo restiamo uniti a Dio in ogni momento, anche se vi trovate isolati, lontani dal vostro ambiente abituale. Come quei ragazzi in trincea, vivrete messi nel Signore grazie al lavoro personale, generoso e continuo, che saprete trasformare in orazione, perché lo incomincerete e lo concluderete alla presenza di Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio Spirito Santo. Ma non dimenticate che siete anche alla presenza degli uomini, i quali attendono da voi, da te, una testimonianza cristiana. Pertanto, nel lavoro professionale, nelle cose umane, dobbiamo agire in modo tale da non doverci vergognare se ci vedesse all'opera chi ci conosce, chi ci ama, chi potrebbe arrostire di noi. Se vi comporterete secondo lo spirito che cerco di insegnarvi, non disgusterete chi ha posto la fiducia in voi e voi stessi non dovrete arrostire. Non vi succederà come l'uomo della parabola che si mise a costruire una torre. Gettate le fondamenta e non potendo finire il lavoro, i passanti cominciarono ad aderirlo dicendo: Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Vi assicuro che se non perdete il punto di vista soprannaturale, coronerete il vostro lavoro, porterete a termine la vostra cattedrale fino all'ultima pietra. Possumus. Possiamo vincere anche questa battaglia con l'aiuto del Signore. Siete convinti che non è difficile trasformare il lavoro in un dialogo di preghiera? Non appena lo si è offerto e si è messo mano all'opera, Dio è già in ascolto, già infonde coraggio. Abbiamo raggiunto lo stile delle anime contemplative in mezzo al mondo quotidiano, perché ci pervade la certezza che Egli ci vede, mentre ci richiede continui superamenti. Quel piccolo sacrificio, quel sorriso ad un importuno, il cominciare dell'occupazione meno piacevole ma più urgente, la cura dei dettagli di ordine, la perseveranza nel compimento del dovere quando sarebbe così facile interromperlo. Il non rimandare a domani ciò che dobbiamo concludere oggi, tutto per far piacere a Lui, a Dio nostro Padre. E magari sul tavolo del lavoro o in un posto opportuno che non richiama l'attenzione, ma che a te serve da svegliarino dello spirito contemplativo, collochi il crocifisso, che per la tua anima e per la tua mente è il manuale da cui apprendi le lezioni di servizio. Se ti decidi, senza singolarità, senza abbandonare il mondo, nel bel mezzo delle tue occupazioni abituali, ad avviarti per questi cammini contemplativi, ti sentirai immediatamente amico del Maestro, con il divino incarico di aprire i sentieri divini della terra a tutta l'umanità. Sì, con il tuo concreto lavoro contribuirai ad estendere il regno di Cristo in tutti i continenti. Una dopo l'altra si succederanno le ore di lavoro offerte per le nazioni lontane che si aprono alla fede, per i popoli orientali ai quali è barbaramente impedito di professare liberamente la religione, per i paesi di antica tradizione cristiana in cui sembra che la luce del Vangelo si sia offuscata e che le anime si dibattano nelle tenebre dell'ignoranza. In questo modo, che grande valore assume un'ora di lavoro? Perseverare con impegno costante ancora per un po', qualche minuto ancora, per terminare tutto bene. Stai trasformando in modo semplice e pratico la contemplazione in apostolato, come un'imperiosa necessità del cuore che batte all'unisono con il dolcissimo e misericordioso cuore di Gesù, Signore nostro. Fare tutto per amore. Forse ti domandi, ma come farò a comportarmi sempre con questo spirito, a portare a termine con perfezione il mio lavoro professionale? La risposta non è mia, è di San Paolo. Vigilate, state saldi nella fede, comportatevi da uomini, siate forti, tutto si faccia fra voi nella carità. Fate tutto liberamente e per amore. Non date mai spazio alla paura o all'abitudinarismo. Servite Dio, nostro Padre. Mi piace molto ripetere, perché ne ho buona esperienza, questi versi non eccelsi ma molto espressivi. La mia vita è tutta d'amore, e se in amore sono esperto è a forza di dolore, perché non c'è amante migliore di chi ha molto sofferto. Impegnati nei tuoi doveri professionali per amore. Porta tutto a buon fine per amore. Insisto, e potrai sperimentare proprio perché ami, anche se devi assaporare l'amarezza dell'incomprensione, dell'ingiustizia, dell'ingratitudine e perfino dell'insuccesso umano, le meraviglie che il tuo lavoro produce, frutti succosi, semi di eternità. Succede peraltro che alcuni, che pure sono buoni o meglio bonaccioni, assicurino a parole di volere diffondere il bell'ideale della fede, ma in pratica si rassegna a un comportamento professionale superficiale, trascurato. Sembrano teste sventate. Se ci imbattiamo in questo tipo di cristiani a parole, dobbiamo aiutarli con affetto e con chiarezza a ricorrere, se necessario, al rimedio evangelico della correzione fraterna. Quando uno venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo spirito, correggetelo con dolcezza e vigile su te stesso per non cadere anche tu in tentazione. Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. E se coloro che fanno del cattolicesimo una professione, sono inoltre persone di età matura, di una certa esperienza o svolgono compiti di più spiccata responsabilità, allora a maggior ragione dobbiamo parlare, dobbiamo cercare di farli reagire perché prendano sul serio la loro vita di lavoro, orientandoli come un padre buono, come un maestro, senza umiliare. È di grande stimolo meditare con calma il comportamento di San Paolo. Sapete infatti come dovete imitarci. Poiché non abbiamo vissuto oziosamente fra di voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e sforzo, notte e giorno, per non essere dipesi da alcuno di voi. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi demmo questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Per amore a Dio, per amore alle anime e per corrispondere alla nostra vocazione di cristiani, dobbiamo dare buon esempio. Per non essere di scandalo, per non suscitare neppure l'ombra del sospetto che i figli di Dio non siano fiacchi o buoni a nulla, per essere edificanti. Dovete sforzarvi di offrire con la vostra condotta la giusta misura, la buona dimensione dell'uomo responsabile. Sia il contadino che ara la terra, innalzando di continuo il suo cuore a Dio, sia il falegname, il fabbro, l'impiegato, l'intellettuale, ogni cristiano, insomma. Tutti devono essere un modello per i loro colleghi, senza orgoglio, perché è ben chiara nelle nostre anime la convinzione che soltanto facendo affidamento su di lui saremo vittoriosi. Noi, da soli, non possiamo neppure sollevare da terra un filo di paglia. Pertanto, ciascuno del suo lavoro, nel posto che occupa nella società, deve sentirsi obbligato a fare un lavoro di Dio, che semini dappertutto la pace e la gioia del Signore. Il cristiano perfetto porta con sé la serenità e la gioia. Serenità perché si sente la presenza di Dio. Gioia perché si sente circondato dai suoi doni. In tal caso il cristiano è davvero un personaggio reale, un santo sacerdote di Dio. Per raggiungere questa meta dobbiamo operare mossi dall'amore, non come chi sopporta il peso di un castigo o di una maledizione. Tutto quello che fate in parole e opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. Agendo in questo modo porteremo a termine le nostre occupazioni con perfezione, riempendo il tempo come strumenti innamorati di Dio, consci della grande responsabilità che il Signore ha messo sulle nostre spalle e della fiducia che ripone in noi, nonostante la nostra debolezza personale. In ogni tua attività, dal momento che puoi contare sulla fortezza di Dio, devi comportarti come chi è mosso esclusivamente dall'amore. Ma non chiudiamo gli occhi davanti alla realtà. Accontentiamoci di una visione ingenua, superficiale, che ci faccia pensare di avere davanti un cammino facile e che per percorrerlo siano sufficienti dei propositi sinceri e dei desideri ardenti di servire il Signore. Potete esserne sicuri, nel corso degli anni si presenteranno, magari prima di quanto si pensi, situazioni particolarmente dure che richiederanno molto spirito di sacrificio e un più generoso distacco da se stessi. Coltiva pertanto la virtù della speranza e audacemente fa tuo il grido dell'Apostolo. Io ritengo infatti che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. Medita con sicurezza e pace. Che cosa sarà l'amore infinito di Dio riversato su questa povera creatura? È ormai il momento, in mezzo alle tue occupazioni abituali, di esercitare la fede, di risvegliare la speranza, di ravvivare l'amore. Vale a dire di rendere attive le tre virtù teologali che si spingono a radicare a sradicare subito, senza infingimenti, senza false coperture, senza giri di parole, gli equivoci della nostra condotta professionale e nella nostra vita interiore. Fratelli miei carissimi, è ancora la voce di San Paolo, rimanete saldi e irremovibili, prodigandovi sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Vedete? Nello svolgere il vostro compito, decisi a santificarlo, entra in gioco tutto un contesto di virtù. La fortezza per perseverare nel lavoro, nonostante le naturali difficoltà, e per non lasciarsi mai vincere dal suo peso. La temperanza per spendersi senza riserve, superando la comodità e l'egoismo. La giustizia per compiere i nostri doveri verso Dio, verso la società e la famiglia e i colleghi. La prudenza per sapere in ogni circostanza che cosa conviene fare e metterci all'opera senza indugi. E tutto, insisto, per amore, con il senso vivo e immediato della responsabilità del frutto del nostro lavoro e della sua portata apostolica. Le opere sono amore, non bei ragionamenti, dice un proverbio, e non occorre aggiungere parole. Oh Signore, concediti la tua grazia, aprici le porte della bottega in Nazareth, affinché impariamo a contemplare te, la tua Santa Madre Maria, il Santo Patriarca Giuseppe, che tanto veneriamo, tutti e tre dedicati a una vita di lavoro santo. I nostri poveri cuori si sentiranno scossi. Ti cercheremo e ti troveremo nel lavoro quotidiano, che tu vuoi che trasformiamo in opera di Dio, in opera di amore.